Lancia. Nel 1906 è nata a Torino un'altra casa automobilistica, la Lancia, che attualmente fa parte del gruppo Fiat. È stata fondata da Vincenzo Lancia, a quell'epoca già molto noto nell'ambiente automobilistico per le sue prestazioni sportive al volante di vetture Fiat. La produzione della Lancia inizia nel 1908 con una vettura denominata Tipo 51, che poi sarà chiamata Alfa quando nel 1919 Giovanni, il fratello di Vincenzo e studioso di lingue classiche, consiglierà di usare le lettere dell'alfabeto greco per indicare i diversi modelli. Uno dei modelli della Lancia che ha avuto più successo è la Y.